Il sabato del villaggio. Senza indugio è il momento di cambiarsi il vestito, di prepararsi quasi col vestito da sera. Va, mettiamo il vestito da cocktail, è il momento di RadioTube. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. L'avete già sentito, è arrivato, ci ha salutato anche nel sabato del villaggio perché è entrato in studio un po' prima. Daniele, sì, buonasera. Ciao. Buonasera. Allora, cosa facciamo? Facciamo quelli che per ordine danno gli account, giusto, queste cose qua, il numero per gli SMS. Il numero per gli SMS dei WhatsApp, non so se lo sai a memoria, segnatelo, no. 349-238-6666. Sì. 349-238-6666, va bene, sia per gli SMS che per i WhatsApp che ho davanti io. Poi. Ci hanno già definito una coppia arcobaleno. Non è male. Sì, il a resto... me l'arcobaleno piace, però no, soprattutto hanno detto che tu, povero Bellasio, che... costretto a sopportare quella. No, ma guardate, ma no, ma ragazzi, il segreto che tanto non mi sopporta. Non è quindi... vero. Non è vero, è più difficile sopportare me, lo dico, ragazzi, lo ammetto, ci dura, sono dei problemi, ma comunque dura, va bene. Cioè, sono degli arcobaleni difficoltosi. Sì, dai, grazie per la solidarietà account. Comunque. Allora, et di Bellasio, et Marta Cagnola, ho detto prima il mio non si fa con le signore, ma ISDV, l'hashtag del sabato del villaggio, e RadioTube, l'hashtag di RadioTube. Ti propongo un gioco. Non ti faccio neanche partire. Facciamo che eravamo. Mi piace, sai quando si usava l'imperfetto? Facciamo che eravamo. Io la dottore, tu il paziente. Ma non si può, no. Questa, tra l'altro, volevo rassicurare che ti cambi d'abito, ma siamo ma ognuno ha una sua tutti. Stanza, esatto. Non davanti alla regia, non davanti esatto. A tutti uomini, poi oggi. Ecco, sì. Tutti uomini, Christian Goldoni, tutti. Andrea allora, Roccabella, no, facciamo regia. Un gioco. Siccome ci siamo scritti via mail ieri sera, mentre tu guardavi una cosa è e io guardavo un'altra cosa. È vero. Anche per par condicio nei confronti delle TV generaliste. Tra l'altro, ieri sera, per me, caso ormai rarissimo, ero su una TV generalista, una TV normale. No, io invece la guardo tanto. No, io praticamente la TV normale era amazing. Infatti, ho scoperto che più o meno. Allora, nel primo blocco. Raccontiamo che cosa abbiamo visto ieri sera. No, cosa hai visto tu? Allora, cosa ho visto è io? Facile, devo dirti che siete però pronti? Secondo me gli ascoltatori, se un minimo mi conoscono, se hanno già sentito radio lo sanno. Allora, programmi. In realtà devo confessarti che non l'ho visto in diretta, perché prima sono andata al cinema a rivedere Lo chiamavano Gigrobò e ne abbiamo parlato nel sabato del villaggio, film bellissimo, se non l'hai visto devi andare per forza a vederlo. Sono andata a rivederlo perché io l'avevo visto. Ma non era cartone animato. No, è un film con Claudio Santamaria, un film di Gabriele Mainetti. Ah, con l'italiano, ho capito. Molto, molto bello. E mi sono registrata invece il programma che attendevo da col tanto VHS. Tempo. No, io uso, vabbè, MySky, si può dire, vabbè, quello lì, insomma. Non è grave. Non lo so, io è uso legale. Quello lì. Sì, no, infatti è legale. Ce l'ho il VHS ancora nella... Ce l'ho, no. Sì. Cioè hai i dischi in vinile, il VHS. No, allora ce l'ho. Adesso poi cosa interessa agli ascoltatori non lo so, però lo raccontiamo. No, siccome io ho molte cassette d'archivio e magari mi servono anche per la radio, l'ho comunque attaccato. Ce l'ho, è funzionante. Sì, ce l'ho funzionantissimo. Bene. Allora, ieri sera ovviamente è tornato Crozza. È tornato il mio Crozza. Amato Crozza sulla 7, quindi il mio Crozza nel Paese delle Meraviglie. Appena sono tornata dal cinema me lo sono guardato, l'ho anche scritto su Twitter, quindi tutti i miei spostamenti ieri sera erano sono documentati. Note. Ieri sera ha fatto un personaggi nuovo personaggio. Nuovi? Sono impazzita per il cuoco vegano. Allora, il un cuoco vegano. Sai che anche Berlusconi, lo sai? No, ma ha detto che non è vero. Ah, non è più vero? No, non è più vero. Mangio cioè, ha ricominciato prima. A prendere la carne? Vabbè, niente. Sì, no, non è più vero. Non era vero. Non è diventato. Ma il cuoco, sì. Ma sì. Il cuoco, che sì. Ha fatto? Il cuoco vegano, che è un cuoco di Gambero Rosso Channel. Lui l'ha imitato. Maurizio Crozza l'ha imitato. Vabbè, dai, poche ah, esiste parole. Uno, vero? Sì, esiste. Sentiamo com'è il cuoco vegano di Maurizio Crozza. Io mi chiamo Germidi. Di cognome? No, Germidi è il nome. Ah, ah. Di cognome faccio soia. Ah. Germidi soia. Vabbè. Sì. Sono uno chef vegan. Sì, bello. Questo è il mio ristorante. Ah, carino. Si chiama il Satut. Satut? Satut. Satut de carton. Ah. Meraviglioso. La mia... Sì. La mia è una cucina... ayurvedica, sì, bello, crudista. Ah, quindi lei non cuoce niente? No, no, non solo non cuocio, ma non lavo nemmeno gli alimenti. Non li lava? Per rispetto alla verdura, che non è detto che abbia voglia di farsi il bagno. Ma cos'è il diritto umano della verdura? Non so come Simone Salvini, che è il vero cuoco vegano di Gambero Rosso, al quale si è ispirato, all'abbia presa. Non lo so, però io mi sono divertita come una pazza. Glielo chiederemo. Ha fatto altri personaggi nuovi? Allora, ha fatto a un certo punto un talk show. Sì. Del quale era conduttore Floris. Ah, ma era lui però. Sì. C'era Pagnoncelli, sondaggista. Ma era lui. Ma era lui. C'era Lutwak in collegamento, ma era lui. E c'era anche Massimo Cacciari. E indovina chi era Massimo Cacciari? Non lo so. Sentiamolo. Ma leggiti un libro, cretina! Guardi, io i libri li leggo, non si direbbe, scusi, eh. Dalle puttanate che dice non si direbbe. Scusi Cacciari, non è un po' presto per incazzarsi? Perché? Che ore sono? Le 9:30. Ah. Eh sì. Scusi. E di solito si incazza un po' più tardi. Io di solito mi incazzo un po' più tardi. Chiedo scusa alla signora, buonasera, va benissimo, mi scusi. Sì, sì. Prego. Scusi Vespa. No, sono Floris. Sì, vabbè, quello che è. Da Vespa devo andare dopo, dai. Va bene, su. Ma da Vespa va dopo. Se Vespa parla di frighi, dovrei venire anch'io. Scusate, state calmi. Il tema frighi è una nostra esclusiva. Ci stiamo lavorando da 2 settimane. Vespa stasera parla di macchie di sugo sulle cravatte. Vabbè, i frighi sono bellissimi. Daniele Di Biergo, parliamo di frighi. Con frighi. I frighi. Io sono impazzita e ho cominciato a ridere come una matta sui frighi. Ma ce li ascoltiamo, ce l'ascoltiamo anche Pagnoncelli, no? Perché noi continuiamo, sì, a menarcela sul talk show, lo guarda la gente, sì, non lo guarda più. Non lo guarda. No, c'è il sondaggio di Pagnoncelli. C'è il sondaggio di Pagnoncelli. C'è il sondaggio. Eccolo qua. Buonasera, benvenuti a Di Venerdì. Questa sera proveremo a parlare di politica. Ci colleghiamo subito con Ando Pagnoncelli, che ha sondato l'opinione del paese. Oggi agli italiani interessa ancora la politica? E grazie, buonasera Floris. Buonasera Pagnoncelli. 25, sì, dove abbiamo chiesto agli italiani, sì, quanto le interessa la politica. Sì. Niente il 25%, sì, niente, ma sai niente, sì, 51%, se mi telefona un'altra volta la denuncio, sì, il 22%, ok, l'avevo avvertita, la denuncio. Ecco Nando, ma allora, se la politica non interessa più a nessuno, noi qua di cosa parliamo per le prossime 6 ore? Di frighi! Frighi! No, ma fa ridere, eh? Ma è tornato che fa ridere. Ma perché sei tu che non mi capisci, Crozza? Guarda che bellissimo. No, alti, bravo. Guardate, la persona della puntata bellissima. Raccontami, sì, cosa ha combinato Mattarella prima della viabilità. No, questo è molto divertente. Una volta i capi di Stato lo ricevevano gli altri capi di Stato, sì, adesso ricevono i capi dei social network. Ah beh, certo, certo. Quindi Mattarella ha ricevuto il number one di Instagram. Ah, Instagram, che questa settimana ha battuto dei grandissimi record, sì, quindi l'unico social network che ormai va sempre più su. Ma sai sempre, che ho superato i 2000 followers di Instagram. Sono quasi una di quelle, guardi, che fanno le foto con i vestiti. Sai quelle, cioè, che hanno tantissimi. Ti pagano per mettere. Assolutamente. No. Rassicuriamo l'ordine. No. Però lo fanno tutti ormai, praticamente. Sì, sì, è no, bellissimo, ma io molto, Instagram. Molti di meno. Anzi, dopo dimmi quanti ne ho, perché controllo poco. Ma invece raccontami cosa ha combinato Mattarella. Allora è andato, non mi ricordo come si chiama. Mi sono perso il nome. Adesso il capo tu mi di Instagram, adesso lo Kevin, troviamo subito. Kevin è andato da Presidente Mattarella e ovviamente a un certo punto gli ha detto: facciamo un selfie. Non so se abbiamo il video del selfie di Kevin audio York alla radio. Sistrom. E abbiamo il selfie. Will take a selfie with you. It's this way, yes? So we'll look right into there. Or there, sorry. 1, 2, 3. Beh, va fantastico. Cioè, gliel'ha spiegato come si fa. Dobbiamo guardare lì, dobbiamo mantenere. Mi ricorda Monti quando aveva fatto il primo tweet, ricordi? Che... No, Monti confronta Mattarella, è ultra pop, infatti, il cane, le cose. Però ha un sorriso popolare. Ma Mattarella è sornione. Mattarella aveva fatto anche Acci picchia. Instagram in Italia, la community ha raggiunto quota 9 milioni di utenti mensili. E tu 2 milioni. Io 2000, vabbè, dai, pochini, però qualcuno ce l'ho, dai, qualcuno che vede le mie foto, io il mio... Cioè, sto fatto che non si può allargare con le dita, che mi manda in bestia. Che ti dà fastidio. Perché alcune foto sono veramente belle, e tu vorresti guardare meglio. Allora uno dice... Mm-hmm. Gli viene naturale di allargare con le dita. Però forse è per, in modo da sviluppare la creatività. Mi guardi, c'è il traffico. Sì, quindi... perché sono le 17:16. Siamo in ritardo di un minuto. Il traffico. YouTube. Daniele, posso rispondere a due messaggi prima di passare al prossimo tema? Certo, allora, prego. Beh, intanto saluto Renato da Torino che su Twitter scrive: ma dai, anch'io ieri sera ero al cinema a vedere Gigi Robò registrando Crozza. Vedi, si fa. Ah, eravate nello stesso cinema? Non lo so. No, ma se Renato scrive da Torino, era Torino. Ah, io ero non a Vimercate. Tu potevi andare a Torino. No, io ero a Vimercate. Allora, era Torino. E poi c'è in realtà Andrea più Rosi, quindi non so se è Andrea lui e Rosi lei, sì, che mi scrivono un messaggio però relativo ancora al Sabato del Villaggio. Mi devo sposare allora, con... Come si chiama il sito internet della signora affitta compra case? No, in realtà non è una signora, è proprio un nuovo, diciamo, portale per semplificare, homepal.it. Home, come casa. Pal come amico in inglese, homepal.it. Molto così forte sui social, anche si un è po' esploso di... infatti. Sì, sì, molto molto forte. Informazioni di servizio, sì. Passiamo al... Allora, questa settimana... Tormentoso. Tutti parlavano... Cioè, io ogni tanto perdo degli argomenti che ci sono sui giornali, perché, sì, non lo so, a prima vista mi annoiano, io mi distraggo. Sì. Quindi avevo perso questo fatto qui, il fatto clou di questa settimana, no? Questo fatto del fiore. Hai dormito per giorni. Ho dormito per giorni. Cioè, sentivo che c'era un fatto di cronaca, lo sapete tutti, petaloso, sì, sentivo, sì, no? Però non mi ponevo il problema di farmelo raccontare. Stamattina... Sì. Siccome sapevo che tu ne volevi parlare, sì, ho chiesto a mio figlio, sì, Rocco, che sta in seconda anni elementare, sette quasi, di raccontarmi che cosa era successo. E me, sì, l'ha raccontato proprio precisamente, lo sapeva tutto. E come faceva a saperlo? No, appunto, ne hanno parlato a scuola, cioè ne si hanno era diffuso. Parlato a scuola. Sì. E invece ai nostri telespettatori da chi lo facciamo spiegare? Allora, da io una direi fonte, prima diciamo, di più, farcelo raccontare, vorrei far sentire fin dove è arrivato questo fenomeno del petaloso. Ecco qua. Un bambino di 8 anni di Ferrara ha scritto insieme alla sua maestra, alla sua insegnante, e dobbiamo dire brava alla sua insegnante, oltre a quel bambino, una lettera all'Accademia della Crusca. Ovviamente l'idea di scrivere all'Accademia della Crusca immagino sia venuta all'insegnante. Ma quel bambino aveva scritto una parola, aveva coniato una parola, la parola petaloso, che l'Accademia della Crusca, dopo una lunga discussione tra i propri grandi esperti, ha ritenuto essere una parola che deve entrare nel vocabolario italiano. E allora quella parola, ieri i social della Crusca, e anche questo la dice lunga, i social network della Crusca hanno rilanciato la notizia, e la parola petaloso è entrata dentro il grande vocabolario della lingua italiana, coniata da un bambino di 8 anni. Beh, questo progetto è un progetto petaloso. Questo progetto è un progetto che ha più di un ambito di azione, è un progetto che davvero possiamo definire con questa espressione. Beh, devo dire che si è scomodato anche il Presidente del Consiglio, sì, Matteo Renzi, che un po' si è appropriato di questo, sì, brava, petaloso. Stavo pensando, no, ma un po' si appropria praticamente di tutto ciò, beh, che funziona. Perché la comunicazione, bravo, politica, sì, dal punto di vista della per comunicazione, quello, non è male. E ha spiegato come... Sì. Ma è proprio entrato nel dizionario, questo è il punto. Cioè, è entrato, allora, o potrebbe? Facciamo ci una sono cosa. Le primarie siccome... per fare... Siccome io non voglio risponderti perché non sono proprio un'autorità scriviamo in materia, scriviamo l'Accademia della Crusca di nuovo. Ma no, noi abbiamo al telefono, lei è della redazione consulenza linguistica dell'Accademia della Crusca. Quindi dobbiamo parlare è molto una bene. Una linguista, quindi io già mi sento un po' in ansia e da prestazione. Tu sei un po' linguista, per cui dobbiamo parlare veramente bene. No, io sono laureata in lingue straniere, quindi sull'italiano non garantisco. Buonasera Maria Cristina Torchia. Buonasera. Allora, buonasera. Intanto posso chiederle subito se si aspettava o se vi aspettavate all'Accademia della Crusca un delirio del genere? Esatto. Neanche lontanamente, ma neanche proprio nei più reconditi ambiti della... No, ecco, la risposta è no. No, perché assolutamente. Perché è stato un diluvio di tweet, messaggi, servizi giornalistici, qualsiasi cosa? È stato veramente un delirio imprevisto, del tutto imprevisto. La storia è partita in un certo modo e in un periodo di ore, di pochi giorni è diventato tutt'altra cosa, è esploso e ha fatto, diciamo, una serie di giri, passando di tweet in tweet, di messaggio in messaggio, per cui le cose insomma hanno preso anche una deriva che non c'entrava niente, che ha creato la rete, ecco, che ha creato la, la comunicazione. Beh, ci sono almeno due aspetti molto positivi di questo fenomeno. Non so che cosa ne pensa lei. Il primo è che intanto si è ricominciato a parlare di un'istituzione importantissima come l'Accademia della Crusca. Senz'altro. E il secondo, che grazie alla vostra risposta abbiamo imparato di più su come le parole possono entrare legittimamente nel vocabolario italiano. Ce ne accenna alcune delle ragioni? Sì, dunque, è vero, diciamo... La rete, la comunicazione è uno strumento e ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi. Quando è ben gestita, credo che abbia delle potenzialità positive enormi, e questo è un fatto buono. Diciamo che sì, ecco, è importante mettere a fuoco le cose che sono vere e possibili. Matteo si è imbattuto come tanti bambini in un gioco di sperimentazione con la lingua e ha creato un aggettivo per definire un fiore, questo aggettivo è petaloso. La sua maestra ha intelligentemente, perché poi sono state dette tante cose anche sulla maestra, oltre che sulla Crusco e tutto il resto, e invece ha avuto l'intelligenza di non sanzionare l'errore, di riconoscerlo come una potenzialità attraverso la quale i bambini crescono e imparano, tutti impariamo per tentativi ed errori, e ha proposto al bambino di contattarci. E l'Accademia della Crusca è da ormai tanti anni, non è, almeno dal 90, diciamo, non è più quella istituzione lontana e inaccessibile che tanti immaginano o immaginavano, ma è aperta al dialogo con il mondo esterno, al dialogo con i parlanti, con i curiosi, con la scuola. Quando abbiamo ricevuto questa lettera, così come ne riceviamo tante, abbiamo pensato di rispondere per spiegare a Matteo uno dei meccanismi di funzionamento della lingua, e cioè come entrano le parole nuove nel vocabolario. La Crusca non ha fatto entrare nessuna parola in nessun vocabolario, anche perché il vocabolario, la Crusca non compila vocabolari dal 1923, fa tante altre cose, ma la sua attività lessicografica è finita, insomma, non è attiva attualmente. E allora come entrano le parole nuove? Le parole nuove certo che provengono dall'invenzione di qualcuno, ma è l'accettazione di una comunità, è l'uso collettivo delle quindi parole, dobbiamo cominciare a usare tutti petaloso per far sì questo è stato quello che hanno recepito tutti quanti, che si sono innamorati un po' di questa storia, di questa parola, e quindi è partito l'hashtag petaloso e ha avuto un successo strepitoso in pochissime ore. Però non basta usarlo per qualche ora, deve entrare nell'uso comune. Esattamente. Allora, io devo dire che una cosa che a me è divertito moltissimo della Crusca, a parte il fatto di dire ancora su petaloso, ne ha parlato anche Michele Serra, ha detto che l'aveva già usato anche lui. Scoperto non da lui peraltro, poi è simpatica questa cosa, ma credo che... Abbiamo un audio, ascoltiamo l'audio. Lui spiega come... Allora, perché gliel'hanno detto, guarda che tu l'hai già usato, tra l'altro per una cosa che ti riguarda da vicino. Allora ascoltiamo. A parte che mi sento... come Carducci, Foscolo, cioè mi sento non nel senso, diciamo, della fama, ma nel senso della vetustà, cioè ho scritto cose che ormai riemergono da archivi polverosi, non me lo ricordavo, non so se essere orgoglioso, ma forse sì, insomma vuol dire che la lingua si muove e che si inventa ogni giorno, cioè forse volevo dire troppo petalosi per dire che erano fiori troppo bene in carne, troppo, insomma, esageratamente belli. E sui fiori di Sanremo scrisse una cosa decisiva David Grieco: sono gli unici fiori veri al mondo che sembrano finti. Ah, quindi l'aveva usato, l'aveva usato per Sanremo. Beh, quindi c'è anche una citazione già letteraria da Repubblica, credo. Non penso intervista. Che Matteo leggesse. No, ma tra l'altro, la cosa divertente, che appunto, dicevo, Panorama, della scritto su Panorama, su Panorama sì. Nel 91. Sì. Beh, straordinario. Io devo dire che, però, il mio ultimo rapporto di interazione con l'Accademia della Crusca risale proprio a Sanremo. Perché? Quest'anno, sì, perché c'era stata la polemica sul povero Gabriel Garco che aveva detto ho sceso le scale. Sì, sì, e io, a parte sì. il fatto che ho subito detto che secondo me stava citando Montale. Addirittura certo. Garco poi, è ovvio che, ma certo, come Matteo stava citando io Serra. Io ho litigato in sala stampa perché ho detto ragazzi, ma scendere si può dire è transitivo quando si scendono le scale o i gradini. E tipo sì, scendi no, il sì, cane no, però no. No, scendi allora il cane. Infatti non si scende. No, sì, perché? I gradini si possono scendere. Allora mi sono rivolta all'Accademia della Crusca per sapere. E hai avuto risposta? Ma sono bravissimi. Sui social siete fantastici, perché se uno ha una perplessità, voi date una risposta. È così, no? Sì. Sì, da quando poi appunto il sito e i social sono attivi in accademia, l'interazione con l'esterno è diventata anche più semplice e più efficace, senz'altro. E comunque c'è una redazione che lavora e che raccoglie le domande, le elabora, le distribuisce fra chi lavora nella redazione e anche fra gli accademici, fra professori universitari, e si cerca di costruire delle risposte anche sui quesiti più frequenti, sui quesiti più di interesse più collettivo. Si fanno degli approfondimenti con delle schede linguistiche che sono disponibili e si possono leggere sul sito dell'Accademia. Ne abbiamo oltre 500 pubblicate sui dubbi più frequenti, sulle domande. Io lo consulto spesso perché ho spesso dubbi e quindi io voglio sapere spesso, io voglio consultare. La cosa bella è che questa parola nuova non arriva dall'inglese, perché di solito tutte le ultime che arrivano E vedremo qualcuno lo ha ventilato a un certo punto, ah, nel sì? senso che esiste un petalus in inglese, anche se non è right. dal 1600 più o meno, anche se non è una parola di uso molto frequente, ma potete immaginare che Matteo non ha tradotto dall'inglese Matteo ha creato. Grazie a Maria Cristina Torchia, linguista, redattrice dell'Accademia della Crusca. Allora, quando abbiamo bisogno, noi scriviamo sempre all'Accademia della Crusca. Fatelo con fiducia. Certo. Grazie mille, a presto. Buonasera. Grazie mille. Noi ci ritroviamo tra poco. Parleremo una pausa petalosa. Parleremo di serie TV senza petali, questi, secondo me. A tra poco. Questo progetto è un progetto petaloso. Radio Tube. E rieccoci insieme, abbiamo parlato tanto di Petaloso, dell'Accademia della Crusca. C'è il nostro amico Carlo, il traduttore che ci segue. Ti ricordi, Carlo, che fa il traduttore d'inglese? Una volta ci ha anche spiegato che stava traducendo delle cose tecniche. Certo. Dice, come traduttore dico viva la Crusca, è vero, perché poi soprattutto traducendo diciamo anche certi dubbi vengono quando si traduce. Allora, parliamo finalmente, di qualcosa che ci appassiona molto. Diciamo ancora et Marta Cagnola, et Marta Cagnola e di Bellasio, 349-238-6666 il numero per i vostri sms. Stiamo un po' trascurando il podcast da un po' di tempo, il podcast, non lo ricordiamo. Radio24.it. Allora, io adesso ho una nuova mission. Sì. Ho deciso che voglio i podcast separati per i blocchi del Sabato del Villaggio. Sì. Cioè, se qualcuno vuole sentire solo il gastronauta, se qualcuno vuole sentire solo i pezzettini. Facciamo no, Radio come... Tube non c'è, tra Radio Tube è già Radio Tube. È già a sé stante. Sì, no, pensavo i blocchi separati, cioè di Radio Tube, quando parla Marta Cagnola e quando parla Marta Bellasio. Quando parliamo. No, Marta Bellasio è tua sì, sorella. Certo, sì. Salutiamo, esatto. ciao Marta. Va bene, così abbiamo fatto proprio gli affari nostri. Parliamo di serie TV, perché a me affascina molto. Sono stato io a dirti. Sì. Cos'è questa cosa, Mr. Robot? C'entrerà mica con noi social network? C'entra? Allora, Mr. Robot che arriva, adesso non vorrei sbagliarmi, il 3 marzo su Mediaset Premium, serie TV pluripremiatissima, ogni giovedì sera, disponibile però anche on demand su Premium Play, yeah. È una serie TV veramente particolare, molti premi, acclamata dalla critica, entrerei già nell'atmosfera di Mr. Robot. C'è un gruppo di persone potenti che nessuno conosce. L'1% più ricco dell'1% più ricco del mondo che gioca a fare Dio. Ma credo che mi stiano seguendo. Di giorno sono un ingegnere di cyber security. Sono un hacker giustiziere solo di notte. Metterai in moto la più grande rivoluzione che il mondo abbia mai visto. Di cosa stai parlando? Il più grande evento di redistribuzione di ricchezza della storia. Salve, Eagle Corp. Si capisce già da questo trailer che è complicato, affascinante. Per sapere tutto noi ci colleghiamo con uno dei nostri esperti preferiti di serie TV, soprattutto di quelle difficili, perché lui ci spiega sempre un sacco di cose. Diego Castelli, che è su Twitter @DiegoCastelli82, nella vita channel manager di Iris, che è un canale che va benissimo, tornando appunto a Mediaset, ma è soprattutto per noi del Sabato del Villaggio e di RadioTube super esperto di serie TV con Serial Minds, serialminds.com. Buonasera Diego Castelli, ciao Diego. Ciao. Buongiorno, ciao, ciao. Allora, tutti. Io ho detto buonasera perché sono chiusa qua dentro da ore, non so se venendo... fuori c'è ancora un po' di luce. Ah, è vero, fuori c'è ancora un po' di luce. No, perché io in studio do le spalle alle finestre, adesso mi volto e vedo che c'è un po' di luce. Diego, ho detto giusto su Mr. Robot? Ho anche detto giusto che è complessa, affascinante, è un mondo singolare? Hai detto assolutamente bene, credo che complicata e affascinante sia un'ottima definizione, perché mette dentro un po' tutto, quelli che sono i grandi pregi, quelli che possono essere i possibili difetti per qualche spettatore, sicuramente una cosa da vedere e sicuramente una cosa, probabilmente la serie che ha fatto più parlare di sé l'anno scorso, anche prima di vincere i premi che ha vinto, perché ha vinto due Golden Globe, ma era una cosa che è arrivata d'estate, tra l'altro, in America, in un momento in cui di solito le serie... diciamo che viene a dire, sono più brutte o comunque ce ne sono meno e sono meno importanti, e invece questa Mr. Robot arrivò come un fulmine a ciel sereno. Magari non ci credevano nemmeno tantissimo quelli di USA Network, perché a metterla d'estate, è vero che le cable americane sono solite mettere le serie su cui puntano anche d'estate in modo da dargli la possibilità di farsi vedere di più rispetto alle stagioni di garanzia. Però insomma è una cosa che è arrivata e fin dalla prima puntata ha fatto strizzare le antenne di tutti gli appassionati, diciamo. Allora, protagonista giovane, affascinante, dicevamo, hacker che si occupa di sicurezza ma che spia anche delle vite, quasi per fare il giustiziere, possiamo dire così? Esatto, in realtà la base della trama è abbastanza semplice, perché comunque c'è questo ragazzo che ha molti degli elementi più classici, verrebbe a dire quasi stereotipati, dell'hacker, cioè una persona molto intelligente, ovviamente molto esperta di computer e di informatica, ma anche molto chiusa, molto introversa, molto che ha difficoltà a relazionarsi con le altre persone, che di giorno conduce una vita da esperto di sicurezza in una ditta che appunto si occupa di sicurezza informatica, e di notte diventa una sorta di giustiziere, nel senso una persona che, spiando nelle vite delle altre persone, trova i cattivi, trova i traditori, trova quelli che mentono, quelli che rubano, e poi va a intervenire, diciamo, che vuol dire semplicemente fargli vedere che ha scoperto i loro giochini e che quindi devono smettere. La verità è che descritta così sembrerebbe quasi una serie di supereroi con un supereroe che usa i computer. In realtà la cosa assume sin da subito una portata più ampia, perché in realtà non è che ogni puntata c'è un cattivo che lui va a recuperare, questa è solo la base, su cui poi si inserisce invece una storia più grande, perché il Mr. Robot del titolo, che uno potrebbe pensare che sia il protagonista, in realtà non lo è, perché lui, cioè il ragazzo Elliot, a un certo punto riceve la visita di questo Mr. Robot, che è un altro hacker che vuole tirarlo con sé all'interno di un gruppo che vuole combattere, diciamo, i poteri forti, no? Diciamola detta molto molto in generale. Su questa trama in realtà si inserisce quello che è il vero cuore della serie, che non andiamo a svelare troppi dettagli, che in realtà è soprattutto un approfondimento psicologico sul protagonista, perché il suo essere così chiuso, così introverso eppure così intelligente crea un enorme stato di continua allucinazione, paranoia, piuttosto che la difficoltà di anche distinguere ciò che è vero da ciò che non lo è, ciò che è semplicemente la paura del cittadino, del ragazzo, della sociale, e quello che in realtà è quello che lui ha veramente davanti agli occhi. Ed è una cosa che all'inizio può anche spiazzare, cioè è uno degli elementi della serie che può risultare più difficili, perché non è la trama lineare di un eroe contro dei cattivi, è anche questo, ma è soprattutto una ricerca psicologica all'interno di un personaggio che può sembrare lontanissimo da noi, ma che in realtà ha moltissimi elementi in cui tutti possiamo riconoscerci, perché alla fine lui è un personaggio estremamente contemporaneo, una persona che si interfaccia col mondo attraverso il filtro dei computer e dell'informatica, e che nel suo piccolo coltiva sia una grande moralità, quindi la scelta di fare del bene, ma che allo stesso tempo si scontra con le sue proprie paure, i suoi propri difetti e le sue proprie difficoltà. Senti, mi pare di capire che comunque c'è, oltre a questo aspetto che raccontavi, il fatto che si tocca un tasto molto sentito in questa fase, cioè il nostro incubo di essere contemporaneamente spiati da più parti attraverso la rete. Ecco, l'ambiente della rete, dell'informatica, il fatto di essere tutti interconnessi, come ne esce in questa serie TV? Diciamo che innanzitutto, soprattutto nei suoi primi episodi, la prima stagione è stata molto apprezzata per la capacità di mostrare un'informatica in qualche modo realistica. Noi siamo abituati, quando vediamo show come CSI piuttosto che altri thriller a sfondo informatico, a vedere gli ologrammi, a vedere i virus rappresentati come se fossero effettivamente dei vermoni, tutti fatti di blocchi di luce. Cioè, di solito le serie e i film tendono a rappresentare l'informatica in una maniera molto buffa, tra virgolette, sì, per farla comprendere allo spettatore. Invece l'informatica di Mr. Robot è estremamente realistica, sono codici, persone alla tastiera e poco altro. Per quanto riguarda il concetto dell'essere spiati, in realtà io non vedo un giudizio definitivo su questo aspetto. Cioè, l'informatica qui è in qualche modo uno strumento che viene usato da persone di vario tipo per compiere azioni che possono essere giudicate in modi diversi. Cioè, ancora una volta, è vero che i protagonisti sono hacker ed è vero che sono mossi da intenti positivi ed è vero che vanno contro una corporation di quelle che normalmente vengono dipinte come quelle cattive, no? Cioè quei poteri un po' nascosti e occulti che ci condizionano la vita. In realtà, con l'andare della serie diventa tutto abbastanza sfumato, cioè da entrambe le parti si possono trovare brave persone e persone che in realtà, o per cattiveria o semplicemente per ingenuità, non hanno capito dove sta veramente il giusto. Quindi ci sono i poteri forti, ci sono gli hacker buoni, tra virgolette, che cercano di aiutare le persone, ma ci sono anche quelli che hanno poi la difficoltà di capire cosa fare del potere che hanno in mano, e parlo degli hacker. Cioè, una volta che sono in grado di fare qualcosa, questo qualcosa dove porta? Cioè, è una serie che si interroga anche su tanti di questi elementi, per evitare che appunto sia una cosa troppo manichea, per cui quelli sono buoni, quelli sono cattivi, e finita lì. Da questo punto di vista è molto precisa. E anche il modo in cui è messa in scena, che in realtà secondo me è una delle grandissime forze di questa serie, non fa altro che creare una continua atmosfera di incertezza, perché è girata in maniera molto diversa dalle serie tradizionali, anche rispetto alle altre serie di USA Network, perché è costantemente straniante, costantemente allucinata, che è anche una cosa, se vogliamo, difficile da seguire, ma che in realtà è molto bella, perché Elliot non è mai rappresentato come una persona che si muove normalmente in un posto colorato e normale, sempre grigio, sempre pieno di interferenze, lui è rappresentato, certi primi piani suoi che non sono primi piani, c'è la sua testa piccolissima all'interno di uno schermo enorme dove alle spalle c'è un muro grigio e basta. Cioè, sono cose che normalmente in una scuola di regia non verrebbero insegnate come le cose che sono normali, ma che qui hanno la capacità di inserire questo personaggio in un mondo strano, difficile, che lui fa fatica a interpretare. E non a caso Rami Malek, l'attore, sta diventando veramente uno dei più emergenti. Infatti, guarda, se vogliamo fare un po' di polemica da premi, ha vinto Christian Slater, che è l'interprete di Mr. Robot, e non ha vinto lui, e secondo me doveva assolutamente essere contrario, perché io non sono un grandissimo fan di Christian Slater, mentre lo sono diventato di Rami Malek, perché è veramente una cosa clamorosa. Allora, da giovedì 3 marzo io vedo che... Vedo Daniele sei già appassionato. Insieme ad House of Cards ce n'ho due. Parleremo anche di House of Cards. Dai, sì. Diego, ti chiamiamo di nuovo per parlare di House of Cards. Va bene se ti richiamiamo e ti chiediamo un po' di cose di House of Cards la prossima volta? Assolutamente. Buon sabato! Grazie Diego Castalli per essere stato con noi. Alla prossima allora. Traffico, secondo me c'è il traffico. Il traffico, sì, il traffico. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Radio Tube. Lo so che poi quando parliamo di serie ci chiedono tante cose. Damiano da Roma che ci chiede regole del delitto perfetto. Bello. Lo so perché poi piace, bisognerebbe parlare tantissimo di serie TV. Vabbè, lo facciamo un po' alla volta. Hai visto che avevo caldo e mi sono tolto il golf? E sotto sei nudo? Sotto non sono nudo. Com'è che ha detto la Boschi? Com'è che ha detto Maria Elena? Maria Elena. Cosa è successo? Sentiamo. Noi questa volta abbiamo deciso di fare una cosa completamente diversa. Mi scuserete, ma fa un po' caldo. Tanto siamo tra di noi, anche senza giacca va bene lo stesso. Ma fare una legge elettorale, ragazzi, non sono rimasta nuda, sono vestita, non è che c'è tutto sto brusio, ho solo tolto una giacca. Ragazzi, posso dire che bella che è, al di là di questo io stavo pensando, è bella, non è che gli si può dire niente, è ovvio che se mi si toglie la giacca, cioè si rumoreggia un po'. Capelli che si muovono. Il famoso Shabadaba, quello... L'ho perso. Sì, perché quando la Raffaele faceva... Virginia, certo. E partiva, allora è diventato Shabadaba. A proposito di Virginia Raffaele, sì? Un altro dei personaggi... Allora, te lo dico. Allora, partiamo da... Perché io ieri sera ho guardato Canale 5. Perché, venerdì sera, in prima serata, Canale 5. Sì, hai guardato Pequeños Gigantes. Ecco, perché già perché chiamano una trasmissione in spagnolo, vabbè, c'è la conduttrice. Ormai quando arrivano dalla Spagna. Ma siccome spagnole. La stessa trasmissione che faceva Paolo Bonolis un po' di anni fa, no? Il principio è quello. Sì. E non è nemmeno tanto brutto. Io sono un po' combattuto, perché è ovvio che è brutto, i bambini, cioè c'è il dilemma, ce l'hai il dilemma tu. Ma no, perché i bambini ci sono sempre stati, adesso facciamo quelli che adesso i bambini d'oro. In TV. Ma persino tu hai condotto una trasmissione con i bambini, ragazzi, anch'io. Però qualcuno potrebbe dire, però i bambini, insomma è una trasmissione dove i bambini devono fare delle cose, ma tutti guardano i conduttori, secondo me. Beh, o perlomeno credo di aver capito, credo di aver intuito perché vabbè, la conduttrice lo sai, no? È Belen Rodriguez. Sì. Poi c'è una giudicessa, petalosa. Pazzesca, sì. Megan Morgan. Un'attrice spagnola pazzesca. Sì. Poi c'era Claudio Amendola. Sì. E poi c'erano altre persone. Ma soprattutto c'è il marito, l'ex marito, il fidanzato, l'ex fidanzato di Belen Rodriguez. E praticamente c'è una sceneggiatura, che è ballerino, no? Certo. E praticamente il sottotesto della sceneggiatura di questa trasmissione, se non ho capito male, è i due un po' litigano, un po' si corteggiano. Vuoi vedere come? Ma allora sentiamo, perché io devo confessare, non l'ho ancora vista, la recupererò. Ecco qua. Non vado bene io così? No. Come no? Perché? Che c'ho di sbagliato? Vecchia. Vedi, dipende tutto dai punti di vista. Allora... a questo punto vi dichiareranno marito e moglie e vabbè, tu ti ricordi insomma come funziona, tu non lo sai ancora e niente, dopo questo dopo non c'è niente questo, da ridere dopo tutto questo no, ma fammi capire, ci sposi tu? No, guarda, io sto iniziando a farmi prete, ma penso ci vorranno ancora 4-5 anni di seminario. Quindi nel caso Giorgio si dovesse sposare quest'anno, gli porto qualche mio amico che è già sacerdote. Io sto ancora studiando. Stai decidendo se andare con un altro oppure... Beh, mi sembra più simpatico lui, però. Dai, no, ma lei lui lo è, fa. Lui è pronto. Lei fa la stizzi. Sai che c'è chi dice che è tutto falso, che si sono ma separati. Ma secondo me che loro si amano ancora. Secondo me loro si sono sempre sicuramente amati. Lui qualche pensierino, diciamo, non proprio. Come direbbe Franca Leosini? No, no, no, no. Senti, senti, c'ha ancora i pensierini. È rimasto sullo stesso. Beh, come ti ha aiutato? Vabbè, sentiamo. Senti, senti. Che sta facendo? Sta rapendo Belen. Ha rapito Belen. E tu che sei un supereroe, cosa devi fare a questo punto? Scappare Belen. Ti prego, Giorgio, aiuto. Sì. Ma sei proprio sicuro? Sicuro. Pensaci bene. Sono sicuro, te lo dico. Ne vale la pena? Ma guarda, ma veramente. Va bene. Guarda, vederla legata è un piacere, però stavolta faremo un'eccezione. Ti piacerebbe? Allora... Non sono sicura di averla capita. No, allora, lì c'è un'interpretazione che dice che è una citazione di 50 sfumature di grigio, che io non ho letto, per sì, cui può essere. Io l'ho letto, quindi ci sta. E c'è un'interpretazione che dice che invece lei, lui la vuole legata nel senso negativo, non che no, ha un sogno non credo, erotico. Non credo, ma sono che... simpatici, è carina, ma simpatici. Sai che lei come conduttrice ma lei è fortissima. Non è affatto male, lei cioè voglio dire... Poi sono contenta, supereroi, abbiamo parlato di supereroi nel Salotto del Villaggio. Qual è il tuo supereroe preferito? Io ho già detto, a me piaceva molto Mourinho, Batman, ma... Vale. No, io ti dico Mourinho, non che vale, devo dire. Non per è me Mourinho. Supereroe. Io ho scelto Batman. Batman era il sì, super maxieroe. Belli, belli. Cioè, quindi è la versione Marta Cagnola un po' così complessa, scura, sì, un po' dark, un po'. Sì, con è la versione Marta Cagnola un po' imbranata. Giocherollona, sì, imbranata. Esatto, beh, esatto, sono esatto, due facce. Io diciamo resto con Mourinho. Tu con Mourinho. Come va secondo bene. E tu. Va senti, bene. Un po' di musica ci un po' di musica. Un po' di noi musica. Qui, sai che noi al Sole 24 Ore, tra sì, le tante cose belle che abbiamo, sì, abbiamo anche una sorta di complesso. Che sì, di Edipo, sì, no. Tanti complessi. Però diciamo, abbiamo un gruppo che fa sì, un tipo di rock molto molto particolare, ne abbiamo già parlato. Sì. E si chiama... non va ancora a Sanremo, ma al Tenco potrebbero. Al Tenco hanno già suonato una volta. Al Tenco hanno suonato una volta. Allora, vabbè, visto che il Tenco è tua materia, vai. Allora entriamo in atmosfera. Il loro genere è il pop tributario e loro sono i rock. Chapter 11. Eccoli qua, questa era la Saudagi do Guru. E il guru ovviamente il guru dell'economia. Presto i Chapter 11 tornano dal vivo. Io sono contenta di poter annunciare il loro prossimo per live, perché loro fanno sempre questi live per beneficenza. E quindi ci colleghiamo con uno dei componenti di questa grandissima band, bassista, con Marco Lo Conte. Ciao Marco. Ciao, buonasera a tutti, mi sentite? Ti sentiamo benissimo. Molto collega bene del Sole 24 Ore, voce nota agli ascoltatori di Radio 24, ma soprattutto bassista dei Chapter 11. Dici al volo le coordinate, quando, vai, dove, come. Dove dobbiamo venire? Allora, a Milano, in via Andrea Maffei, il numero 29. C'è un bellissimo teatro che è il Teatro Silvestrianum, molto capiente, molto bello. E la data, il 29 febbraio, già ispirato, perché noi cerchiamo sempre delle date con delle combinazioni numerologiche particolari, ma insomma un anno bisestile, il 29 febbraio, che cosa devi fare nella vita? Se non, se certo, non andare a vedere il concerto di Chapter 11, che come giustamente avete anticipato, è un concerto di beneficenza, perché noi suoniamo per beneficenza. In questo caso l'associazione è l'associazione dei cuori nero-azzurri. E sottolineo. E sottolineo, ma io sempre, diciamo Daniele, se qualche non nero-azzurro, qualche diversamente interista dovesse storcere il naso, ebbene sapete, sappiate che insomma la beneficenza non conosce colori o confini, unisce, e la musica altrettanto. Noi abbiamo abbracciato questa piacevolissima missione, quella di divertire con la nostra musica, che è la musica umoristica, certo, teatro canzone, È sempre per beneficenza, in questo caso lo facciamo per gli amici dell'associazione. Noi siamo quasi tutti nerazzurri, vabbè, siete perdonati. Ma siete perdonati. Allora, lunedì sera i Chapter 11, sì. Adesso magari postiamo sui social, esatto, tutti i dettagli. Tutto. Anche perché Marco è social media editor. Esatto, quindi se non lo sa fare lui. Bassista. Vai, grazie Marta. A Marco Loconte, a presto. Grazie a voi. È il momento per noi dei ringraziamenti. Grazie a Andrea Roccabelli regia, Cristian Goldoni che come sempre è il nostro badante, cioè, la barba senza la barba più bella di Radio 24, senza Cristian non andiamo in onda. Ciao Daniele, al prossimo sabato.